in tavola di Nicoletta Carbone. Buona domenica. Che sarà, siete portati a meditare, c'è qualcuno che dice ma io ci ho provato ma mi stufo, mi vengono un sacco di idee, bla bla bla, bla così via. Allora vi do un consiglio. Sì. Cantate. Prendo il cacco, quello già un bello maturino, tolgo la boccetta, lo frullo, viene una specie di cremina di cacco. Crema dolce. Ecco, crema dolce. Uno stratino di marmellata di marroni, ce l'avete in casa, questa è la sua. Beh, non cacco è finita. Poi vado di panna montata, ma montata a casa, leggermente montata. Montata ma non tanto montata. E riccioli di cioccolato fondente, com'è? Buona domenica, l'avete provata? È squisita! Provatela intanto. Accomodatevi alla tavola della bufala in tavola, prontissimi per il nostro consueto viaggio settimanale su Tavole e Tavoline. Siamo pronti? Partiamo! Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. E viaggiamo e finalmente ritroviamo uno dei nostri esperti del cuore, il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano, che è tornato a trovarci perché siamo irresistibili. Buongiorno, buona domenica. Vero, buona domenica. Davvero irresistibili, assolutamente. Dai, che bello. Allora, dottor Speciani, oggi vogliamo ripartire dai messaggi che abbiamo ricevuto dai nostri ascoltatori, a cui abbiamo chiesto: raccontateci il vostro piatto del cuore. Allora, e così vorremmo anche un suo commento, qualche aggiunta, qualche... insomma, dottor Speciani, faccia al dottor... Ecco, dottor Speciani, faccia al dottor Speciani. Tra l'altro, qual è il suo piatto del cuore? Devo dirlo operativamente? Ma no, aspetti lì, intanto ci pensi. Ho anticipato, vabbè, ma dopo vi racconto come la faccio. Va bene, allora vuole dirlo o no? Eh certo, la peperonata, questo sì. Mamma mia, anche Andrea Vitali è pazzo della peperonata, dovete fare una, anche a me piace molto. Peperonata però bisogna aspettare, dottor Speciani, nel frattempo? Sì, nel frattempo in questo momento la peperonata si può fare perché si trova, certo non vuol dire utilizzare piatti di stagione, perché i peperoni hanno la loro stagione e quanto, ma la mia peperonata, che è quella che fa mia moglie Marina, è una peperonata fatta con i pinoli, le uvette e le olive nere, che è una cosa deliziosa. Insomma, una peperonata rinforzata. Esatto, allora, esatto. Poi ci darà sicuramente la ricetta, perché facciamo il cacco della Nico o la peperonata del dottor Speciani? Esatto. Votate. Allora, andiamo, diamo spazio però ai nostri ascoltatori che si sono sbizzarriti. Andiamo a sentire. Ciao Nicoletta. Per me il risotto di primo e il lesso per secondo è il piatto della tradizione che mi scalda il cuore. Mi ricorda quando ero piccolo e alla domenica andavo a trovare i nonni e il menù era sempre questo. Beh, Francesco ci dà un menù straordinario, il menù della domenica, e poi è sempre quello della domenica, un menù che sa di casa, di nonni, di profumi. Dottor Speciani. L'immagine era assolutamente di un, così, un sapore che veniva fuori, un'immagine emotiva. E però bisogna pensare a quale tipo di riso usiamo, è meglio quello integrale. Oggi con le variazioni possiamo farle anche sulla tradizione. E poi soprattutto consideriamo che nella tradizione questo è un bilanciamento corretto, significa riso, carboidrato e lesso, proteine. Sicuramente con insieme un po' di verdure, perché chi mai fa un lesso senza qualche verdura di fianco? Ed ecco che abbiamo un piatto che è perfettamente congruo con le indicazioni anche della scienza. Bravo, il nostro amico ci ha raccontato una cosa bellissima. Andiamo al prossimo piatto del cuore. Per me la tartare di fassona piemontese. Basso contenuto di colesterolo, grande apporto di selenio e presenza di grassi polinsaturi omega 3 e omega 6. Essenziale il nostro ascoltatore con le idee molto chiare. Che cosa aggiunge? Devo dire che poi c'è carne e carne, indubbiamente la Fassona è una storia di un particolare tipo di bovino con una carne molto specifica e particolare che fa un po' la tradizione. Poi ecco, diciamo che gli omega 3 ci sono, questa è una cosa di cui si pregia chi effettivamente produce Fassone, e però dall'altra parte è ovvio che non è che ne abbia una quantità enorme come invece abbiamo dentro nel pesce grasso, nel pesce azzurro, però diciamo che è già una scelta positiva, e per questo signore carnivoro direi che possiamo fare un ragionamento positivo, perché siamo in una bella carne magra con dei grassi sani, e quindi è un buon segno. Ci sono arrivati tanti piatti del cuore, molti direi sono proprio a base di verdure di stagione. Dottor Speciani, lei ha parlato di peperonata, il peperone è una verdura tipicamente estiva, ma lei la sua ricetta arricchisce questa versione della peperonata con pinoli, ha detto, olive e uve. E uvette. La rende un po', no? Mi ricordo un po' il sapore dell'altra mia metà, quella siciliana, mi piace. L'invito però, dottor Speciani, faccia il dottor Speciani, non sia goloso, è di mangiare sempre prodotti di? Di stagione, dai, ci vogliono, io però non può dirmi, io lo faccio perché in questo periodo la mia tavola è fatta assolutamente, tra l'altro siamo partiti con i cachi, io ho i cachi del mio giardino, dei miei alberi che sono buonissimi, e però la stagionalità ha un senso. Tra l'altro la verdura che noi, la frutta che portiamo in tavola, ti arricchiscono naturalmente i nostri piatti di gusto e di salute, ma attenzione, non conosciamo mai i prodotti che portiamo a tavola abbastanza, ci sono sempre delle virtù. Adesso tra poco con il nostro prossimo ospite andiamo a scoprire il lato magari più nascosto, meno conosciuto dei prodotti di stagione. La bufala in tavola. Invitarlo una domenica, Fabio Concato, che tra l'altro si è pure vinto l'Ambrogino d'Oro, una domenica con Fabio Concato per chiacchierare di cibo, gusto, salute, insomma. Comunque torniamo a noi, di ricetta in ricetta, di prodotto in prodotto, stiamo scivolando verso il prossimo ospite che è tornato a trovarci, io sono molto contenta, è il professor Ciro Vestita, che è docente di nutrizione umana e di fitoterapia all'Università di Pisa. Professore, bentornato. Buongiorno a voi, eccoci. Professore, lei nel suo ultimo libro, che a me piace molto, Cibi ed erbe che curano, racconta anche delle cose un po' curiose relative ai prodotti di stagione, quello che portiamo in tavola. Allora mi è venuto in mente di lanciarle questa sfida. Ci racconti, ci sveli un po' le virtù meno conosciute o nascoste, certo, di quei prodotti che abitualmente portiamo in tavola. Prodotti, certo. Noi lavoriamo sempre, insistiamo molto sul prodotto di stagione, perché la natura sa quello di cui abbiamo bisogno, e l'inverno è una stagione molto ricca di verdure che hanno tutto quello che ci serve per far sì che il nostro organismo funzioni bene, funzioni al meglio. Ma professore, lei ci stupirà con effetti speciali. Allora, cominciamo dai cavoli. Voi tutti sapete quanto i cavoli, tutte le brassicacee in sintesi, siano importanti per la profilassi dei tumori grazie a queste molecole chiamate sulfoni. La American Cancer Association mette i cavoli al primo posto nella profilassi di tanti tumori di questo tipo, ma attenzione, i cavoli hanno tantissime altre virtù. In primis sono ricche di antibiotici naturali. Cosa vuol dire? Che nelle infezioni delle vie urinarie, questo può sembrare un po' strano, un alimento coadiuvante nella terapia di queste situazioni è proprio l'acqua di cottura dei cavoli, perché bevendo l'acqua di cottura dei cavoli, tappandosi un pochino il naso, noi riusciamo fortemente a disinfettare le vie urinarie, perché ci sono tanti antibiotici naturali che possono fare questo. Non solo, i cavoli applicati per via esterna, io ho lavorato tanto tempo col famosissimo Messeghè, lui mi insegnava che nelle piccole lesioni si può prendere una foglia di cavolo, stirarla col ferro da stiro, viene fuori una copertina quasi di velluto, e applicarla praticamente sulle piccole ferite, ad esempio piccole scottature oppure piccole ferite da taglio. La cicatrizzazione è immediata, quindi tenere sempre un cavolo in casa può fare solo e soltanto bene. Un cavolo per amico. Esatto. No, ecco, una grande famiglia, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Dal cavolo passiamo... Passiamo a un altro alimento a me molto caro, che sono i cardi. I cardi sono alimenti che hanno un potere coleretico e colagogo. Cosa vuol dire coleretico? Perché induce il fegato a produrre più bile, colagogo perché induce la cistifelli a svuotarsi nell'intestino. Nel momento in cui c'è un allontanamento della bile in eccesso, è ovvio che si abbassi automaticamente la colesterolemia. Non solo, le case farmaceutiche attingono a piene mani ad una sostanza presente in questi alimenti che è la silimarina, e nella steatosi epatica, dove non c'è il farmaco che tenga, una dieta ricca di cardi può abbassare fortemente la presenza di grasso nel fegato, e questo è importante. Professore, interessanti sono anche, e assolutamente di stagione, anche se li troviamo tutto l'anno, sono i finocchi. Esatto. Che sono una miniera di salute. A parte che si possono fare in tutte le maniere. Esatto. Da crudi a cotti, gratinati, ripieni, esatto. Chi più ne ha più ne metta. E quindi è molto facile consumarli. Esatto. Poi sono buoni, esatto. Piacciono anche ai bambini. Allora, mangiarli crudi vuol dire prendere una quantità enorme di vitamine, questo lo sappiamo. Mangiarli cotti vuol dire sfruttare il loro potere diuretico, altamente diuretico. Però a chi non piace il finocchio bollito si può fare un centrifugato di finocchio crudo. Il potere diuretico è immenso, tant'è che noi su 300 cc di liquido di finocchio che possiamo prendere riusciamo a perdere quasi 50 grammi di acqua in più, quindi il potere diuretico è enorme e, essendo molto forte questo potere diuretico, si abbassa immediatamente la pressione arteriosa. Idem vale per il sedano. Professor Vestita, abbiamo preso in rassegna le verdure. Frutta, che cosa c'è di intermedio? Agrumi, vitamina C. Tre anni fa. È stata isolata negli agrumi, nel limone, nel pompelmo in particolare, una molecola chiamata naringenina, capace addirittura di attaccare il violentissimo virus dell'epatite C. Il mio discorso terra-terra è questo: si attacca un virus così violento, immaginiamo quanto possa fare contro le patologie raffreddative che stanno arrivando, contro i virus raffreddativi. Quindi prendere praticamente 2-3 arance al giorno, un succo di limone al giorno, vuol dire contrastare fortemente questi virus che ci stanno aggredendo. Tieni conto che questa è una terapia antichissima, al tempo dei Borboni si imponeva alla popolazione, prima di bere, di mettere limoni tagliati nelle caraffe d'acqua per contrastare praticamente i batteri presenti in quel periodo, quindi niente di nuovo. Gli agrumi hanno un fortissimo potere antimicrobico, antivirale. Professor Vestita, sì. Ci ha raccontato le virtù meno conosciute dei prodotti di alcuni, dei prodotti di stagione, sì. Verrà sicuramente a trovarci per raccontarci altro, ma io vorrei che lei ci raccontasse anche il suo piatto del cuore. Ma il piatto del cuore in questo periodo è un risotto integrale con cavolo verza, un po' di parmigiano grattato, un filo d'olio, e ne fuori un piatto stupendo, estremamente nutriente e soprattutto molto gradito anche ai bambini. Quindi questo è un piatto vincente che si può fare tutti, ci vuole mezz'ora per il riso, 20 minuti per la verza e siamo a posto, in un tempo brevissimo, un piatto favoloso. Tutto registrato, professor Vestita. Grazie. Presto, prendiamo nota. Ciao. A prestissimo. Buona grazie, giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Cavoli, cardi, finocchi, agrumi, insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma mi raccomando, mandateci le vostre ricettine col cavolo, col finocchio, con il cardo con la bagna cauda può competere con la peperonata arricchita del dottor Speciani. Dottor Speciani, che dice? Io ero abbastanza incerto, perché avendo una moglie che in realtà ha una parte di origine piemontese, ero incerto sul cardo con la bagna cauda. Può metterne più di uno di piatto del cuore. E intanto ricordiamo alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando obiettivo salute @radio24.it, oppure di mandarci le loro ricette sui nostri social, così si dice. Allora, dottor Speciani, a parte delle ricette, mettiamo un attimo da parte le ricette del cuore. Io ho bisogno di lei. Perché? Perché vorrei suggerire alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando e che hanno superato il Covid in forma più o meno lieve, dei suggerimenti, una dieta che gli aiuti a contrastare quel senso di stanchezza questa astenia profonda che accompagna e caratterizza molte persone che si sono confrontate e hanno superato la malattia. Naturalmente la ricerca è al lavoro. Dottor Speciani, quali sono le indicazioni, i suggerimenti che si sente di dare alle persone che sono, possiamo utilizzare, sono in convalescenza? Io direi questo, che è un dato estremamente importante. Siamo qui alla tavola della domenica, quindi non vogliamo appesantire questa situazione, ma è vero che gli elementi che hanno consentito oggi di capire cosa sta succedendo proprio per questa stanchezza hanno consentito anche dei passaggi evolutivi della scienza. Ad esempio, io da immunologo mi sono accorto che le cose che abbiamo imparato e che adesso vi racconto su come nutrirsi sono le stesse che subito ho applicato anche per esempio per le mononucleosi, per altre virosi, per altre stanchezze che possono intervenire dopo una forma virale. Vorrei dire una cosa ai nostri ascoltatori: che si sta scoprendo che questa stanchezza compare a volte anche nelle persone che sono state asintomatiche, cioè quelle che non hanno avuto una forma veramente importante. Allora cosa facciamo? Intanto capiamo perché questo virus qua va ad agire sulla situazione metabolica, sulla situazione neurologica. Quindi come ci aiutiamo? Allora, l'elemento cardine che suggerisco ai miei pazienti, devo dire con efficacia, è l'utilizzo del coenzima Q10. E qui faccio una notazione, anche perché da sportivo mi vengono in mente il 1982, il campionato mondiale di calcio, che in questi giorni purtroppo ci è stato ricordato anche per la perdita di Pablito, come si dice, e ti ricordi, che ricordiamo tutti con grande affetto, grande uomo. E nell'82 si diceva che il professor Vecchietti della nazionale, i giocatori proprio col coenzima Q10, che è una sostanza naturalissima, ed è uno degli elementi che però migliora il metabolismo muscolare. Dove li troviamo il coenzima Q10? Ad esempio lo troviamo nel salmone, nel tonno, nel fegato, nei alcuni cereali integrali e soprattutto poi nelle uova, nelle arachidi, nei piselli. Allora, è un elemento che merita di essere assunto e integrato insieme alla vitamina D3. Perché la vitamina D3? Perché abbiamo visto che è fondamentale per il riequilibrio anche neurologico e muscolare. E dove la troviamo? Frattaglie, pesce, olio, burro, formaggi. Quindi è un invito anche a mangiare queste cose, perché a volte le persone dicono: cerco di stare leggero, lato, leggero. E poi c'è un aspetto legato fondamentalmente alle botte glicemiche, che possono essere problematiche. Ci avviciniamo alla situazione natalizia e quindi più che evitare gli zuccheri, perché è possibile, quando tu dici a uno a Natale evita gli zuccheri, lo fa per 2 giorni, poi ti manda a quel paese e ne mangia un quintale e mezzo e quindi bisogna imparare come gestirlo. Quindi è un elemento, ecco, sul coenzima Q10, questa è una notazione che do: le persone che stanno prendendo delle statine hanno, proprio per la struttura delle statine, hanno una riduzione del coenzima Q10, quindi a maggior ragione. Questa è una sostanza naturale che produciamo anche nel nostro organismo, a volte non a sufficienza. Se stiamo prendendo farmaci che lo inibiscono, dobbiamo aiutarci, come abbiamo detto prima, con alcuni prodotti sani, come abbiamo citato, per aiutare il recupero e la funzione muscolare. La parte zuccherina è una parte importante che poi andiamo a discutere, però quello che abbiamo già detto in un precedente incontro è che lo zucchero non va evitato, va graduato. Quello che si sta scoprendo è che intanto la presenza di un eccesso zuccherino può diventare problematico proprio anche nella gestione dei fenomeni di stanchezza e di astenia, perché c'è un'interferenza sulla parte neurologica. Allora torniamo, ma come, siamo qui la domenica che dobbiamo mangiare anche qualcosa di buono e di dolce, siamo partiti con il cacco con la marmellata di marroni. Le è rimasto, è questa la segnata. Allora, sì, siamo partiti da lì, ma adesso chiediamo naturalmente al dottor Speciani di tradurci un po' in uno schema alimentare, in una settimanale o giornaliero, quello che sono gli alimenti, i prodotti importanti da portare a tavola anche nel corso della nostra settimana. Ci fermiamo, il dottor Speciani si prepara e subito dopo parliamo della nostra pausa. Ritorniamo insieme per... dottor Speciani, possiamo dire la dieta post-Covid? Direi che possiamo dire quali sono, non tanto la dieta post-Covid in assoluto, perché poi andrà personalizzato, però i suggerimenti alimentari che possono aiutare a recuperare meglio la stanchezza post-Covid. Sì, dai, sintetizziamola così, dieta post-Covid. Dai. Ecco, per vincere, allora, dieta per combattere e superare la stanchezza post-Covid. Ci piace di più? È più corretto? Sì. Andiamo, fermiamoci. La bufala in tavola. Veloci veloci siamo tornati in linea con noi il dottor Attilio Speciani, che ci accompagnerà per tutta la puntata e con cui stiamo parlando di quella che noi abbiamo così definito dieta post-Covid. In realtà, per essere precisi, quali sono le indicazioni e i suggerimenti alimentari che possono aiutare le persone che hanno superato il Covid-19 a in qualche modo contrastare quel senso di affaticamento, di stanchezza che è molto pesante. Dottor Speciani, l'ho detta bene? Ha detta perfettamente. Corregga lei, ma allora cosa mangiamo? Cosa possiamo mangiare? A volte non c'è neanche l'appetito, dottor Speciani. Esatto, però possiamo anche aumentarlo, migliorarlo da questo punto di vista. Intanto dobbiamo obbligatoriamente cercare di fare una prima colazione, perché la prima colazione ha un senso proprio sullo stimolo del metabolismo e sulla accentuazione della capacità dell'energia dell'organismo stesso. Quindi e deve essere diviso in tre parti. Quindi se uno sta mangiando, se ad esempio una fetta di pane integrale con un bicchiere di latte, abbiamo bisogno di aumentare un po' le proteine e quindi ci mettiamo dentro un uovo sodo. Ecco che abbiamo una quantità di bilanciamento che migliora già l'infiammazione. La prima colazione è basilare per recuperare la stanchezza. Poi pranzo, abbiamo parlato prima di coenzima Q10, ecco che un pranzo con dei pesci grassi come il salmone, piuttosto che non le sardine, gli sgombri. Dottor Speciani, la fermo, va bene anche quello in scatola, vero? Se non abbiamo voglia di cucinare perché siamo stanchi, ad esempio? Sì, diciamo okay. che va bene, e come può essere benissimo anche un salmone affumicato, certo. Il pesce in scatola ci possono aiutare, anche il tonno nello stesso modo. Poi come miglioriamo con i prodotti di stagione, così anche con i prodotti freschi è sempre meglio, ma dove non si può fare tutto cerchiamo di fare almeno la parte in scatola, surgelato o fresco, l'importante è mangiarlo. Basilare che ci siano dei cereali integrali a fianco, perché abbiamo visto prima quanto sia importante il fatto che ci sia alcune sostanze che sono presenti nei cereali integrali e non in quelli raffinati. E se uno poi a metà pomeriggio ha fame, frutta secca, che quindi abbiamo sia il coenzima Q10 sia la palmitoide etanolamide, che è un altro vegetamento. Come si chiama? Palmi? È quella che ha studiato la Montalcini, mi piace sempre. Simpaticamente si chiama PEA, che sono le iniziali di palmitoile etanolamide, e quindi è il PEA, è frutto della ricerca della nostra grandissima Montalcini, e quindi lo cito sempre con molto piacere. E poi la cena deve essere leggera, sempre cercando di mantenere una divisione tra i tre gruppi, quindi proteine, carboidrati e un pochettino di frutta e verdura. Ecco, se vogliamo mangiarci un dolcetto, abbiamo magari un pasto su tre in cui scegliere, meglio a pranzo fondamentalmente e meglio senza zuccheri aggiunti. Il problema, l'abbiamo detto, è di cercare di evitare di avere continuità d'uso della parte zuccherina, della parte dolce, e quindi godersela quando lo possiamo mangiare in modo pieno, perché anche la parte emotiva è importante per recuperare energia. Assolutamente sì, e anche la ricerca lo dice, vero dottor Speciani? Assolutamente sì, confermo, vedi che ci stiamo facendo flick e flock, quindi diciamo le stesse cose. Cioè, la ricerca ce lo conferma, ci sono elementi fondamentali per riuscire a capire come il controllo di questo tipo di interferenza in questa presenza, sia nel pre che nel post Covid, ha una importanza enorme. E a proposito di ricerca, apriamo il nostro spazio settimanale proprio dedicato alle ricerche. Ci ha raggiunto anche un altro amico della nostra trasmissione. Alla tavola della bufala in tavola si creano relazioni, amicizie, si chiacchiera, si prendono informazioni. C'è con noi il professor Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca CREA Alimenti e Nutrizioni. Professore, buona domenica, grazie. Buona domenica a voi, buongiorno. Professor Ghiselli, con lei apro con un'indagine realizzata da Hate Food su 5.000 consumatori in 10 paesi europei, secondo la quale il Covid ci starebbe facendo mangiare meglio. Professor Ghiselli, è d'accordo? Dal suo osservatorio privilegiato che cosa nota? Allora, potrebbe essere, nel senso che certamente abbiamo più tempo a disposizione per fare la spesa, cucinare e mangiare alimenti tra virgolette più sani, sì. Tra molte virgolette, perché cucinati virgolettiamo sì, molto, tantissime virgolette, perché cioè non è detto che un alimento che mi cucino io sia più sano di un alimento che compro già fatto, ma in generale diciamo andrebbe in un senso buono questo. Questo però contrasta con altri studi che sono stati fatti durante questo periodo, che hanno invece visto che siamo ingrassati. Allora, insomma, forse mangiamo cose qualitativamente migliori, ma ne mangiamo troppe, forse stiamo seduti sul divano a cercare di sconfiggere l'angoscia con qualche dolcetto in più, e questo ci fa aumentare di peso. Ecco, forse quindi il nostro giro vita si arrotonda, ma eccola qua pronta, un altro studio arriva dall'Università del Maryland, questa volta scende in campo il dottor Speciani, perché questo studio parla delle proprietà bruciagrassi dell'ortica. Occorrerà naturalmente aspettare la primavera, ma intanto ci portiamo avanti. Dottor Speciani, ogni tanto escono queste ricette che sottolineano delle virtù di erbe o alcuni di alimenti. Noi abbiamo sempre sottolineato che non c'è l'erba magica, il prodotto, no, che è capace di fare meraviglie. Ma che cosa ci racconta questo studio? Ma guarda, è interessante, perché tra l'altro il gruppo di ricerca effettivamente all'Università del Maryland ha fatto delle valutazioni interessanti già negli anni scorsi proprio sulla efficacia dell'estratto di ortica, però a livello cellulare, nel modificare alcune correlazioni con l'insulina. Noi sappiamo che l'insulina serve per la gestione degli zuccheri, quindi rientra un po' in questo aspetto. Sappiamo che potrebbe essere una strada da percorrere, soprattutto la ricerca si può muovere anche con l'utilizzazione di prodotti naturali. Ricordiamoci una cosa dell'ortica, che è l'infuso di ortica, quindi c'è da prendere con le pinze, come si dice quando si raccolgono le foglie, però è qualcosa che può aiutare ad esempio a drenare un po' di liquidi. È conosciuta come prodotto che toglie peso, ma perché toglie un po' di liquidi, non perché riduca il grasso. Però seguiamo anche questa linea, che potrebbe essere interessante in futuro. Per ora è ancora ipotetica, ma iniziamo a leggerla con un po' di attenzione. Dottor Ghiselli, è uno studio che sono certa le piacerà, non mi farà le punte. È uno studio spagnolo che conferma i benefici della dieta mediterranea nelle persone che hanno già avuto un infarto, perché la nostra dieta mediterranea sarebbe in grado di favorire l'elasticità delle arterie. Professor Ghiselli, ci piace questo studio? Dieta mediterranea salva cuore, così? Sì, molto, molto, ci piace molto. Ecco, questo lo sapevo. Però, voglio dire, è interessante che debbano essere fatti studi a conferma delle qualità salutari della dieta mediterranea dopo 80 anni che si fanno studi sulla dieta mediterranea. Senta, professore, lei ha ragione, ma io, se no, se voi non continuate a fare studi, anche studi che, no, riconfermano le proprietà, io ho lo spazio della ricerca, la bufala in tavola, e dove lo vado a prendere? No, quindi, spagnoli, no, no, studiate anche voi. No, professore, al di là della battuta. Era per dire, certo, che questo studio probabilmente si è reso necessario come risposta a una serie di diete strane che vengono propagandate oggi, e del fatto che molti, anche sui media, propagandano diete molto lontane dalla dieta mediterranea, anzi dicendo: attenzione, la dieta mediterranea vi fa male, fa ingrassare, fa questo e fa quest'altro. E quindi evidentemente servono studi di questo tipo per dire: guardate che in realtà quello che studiavamo 50 anni fa è ancora attuale oggi. Quindi promuoviamo la dieta mediterranea, professor Ghiselli, ma quella, sì, vera, non quella però, che, ecco, noi diciamo. Vabbè, attenzione, ecco, la cucina di casa mia è dieta mediterranea. Non è detto, come lei ha sottolineato nel commento del primo studio, non è detto che quello che preparo in casa sia più sano di quello che del prodotto magari che compro confezionato. Bisogna prepararlo come il faux, insomma. Sì, non vuol dire mangiare tantissimi prodotti che crescono nell'area mediterranea. Dieta mediterranea è un'altra cosa, è una dieta povera, basata su alimenti di origine vegetale e con pochissime aggiunte di alimenti di origine animale. Ma sostanzialmente è una dieta povera, parca, frugale, come possiamo dire. Abbiamo, insomma, se una è in sovrappeso non fa dieta mediterranea, questo è. A lei è proprio così, va piatto piatto. Beh, quella è la dieta mediterranea. Ah. Se una è in sovrappeso significa che non sta conducendo un'alimentazione adeguata al suo dispendio energetico, quindi non è dieta mediterranea. Dottor Speciani, è d'accordo? Ci sono no, bisogna seguire il dispendio energetico sicuramente, su questo non c'è ombra di dubbio. Poi la Harvard Medical School ci ha indicato che il rapporto corretto tra proteine e carboidrati è uno dei meccanismi per controllare l'infiammazione, e quindi giustamente possiamo seguire questo stesso tipo di indicazione. Professor Ghiselli, mi dica il suo piatto del cuore, qua la voglio. Il mio piatto del cuore è la pasta. Oh. In tutte le salse. In tutte le salse, ricche e generose oppure più parche? No, parche, io una porzione di 80 grammi è più che sufficiente. Beh, ma insomma mangia, professor Ghiselli, 80 grammi sono... 80 grammi, lo vada a dire a un... A un siciliano. Ma io ne ho uno davanti dall'altra parte del vetro. È peccato che voi non potete vederlo, ma lo vediamo io e la Laura. Siamo contente che Pietro alla corte. Professor Ghiselli. Quindi per lui 80 grammi sono l'antipasto. Beh, pochini, dice Pietro. Sì. Dottor Speciani, lei quante ne mangia di pasta? Ma io ne mangio raramente, poi però quando la mangio ben condita, in modo adeguato, eccetera, però siamo sugli 80-100 grammi circa. Vabbè, ma siete degli omaccioni. Va bene, comunque, professor Ghiselli, buona pasta, ci sentiamo presto, ancora prima di Natale. Grazie. La ringrazio, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, dottor Speciani, io ho ancora una ricerchina che le piacerà molto, pubblicata proprio pochi mesi fa, a settembre, sul Journal of Diabetes, che sottolinea un concetto di cui lei ci ha parlato tante volte, e cioè il controllo degli zuccheri e glicazione, che sono utili anche per guarire la tiroide. Che ci azzecca, direbbe qualcuno, dottor Speciani? Ah, guarda, è interessantissimo, perché in realtà pensiamo a quante persone per anni hanno detto è colpa delle ghiandole, no? Quando ingrassavano. E dice che le ghiandole era poi riferito globalmente alla tiroide, ma è proprio una frase fatta nella storia italiana, nella cultura italiana popolare, che sono è colpa delle ghiandole. In realtà si scopre il contrario, che in realtà la ghiandola tiroide può funzionare male proprio perché uno sta mangiando troppi zuccheri. E questa ricerca bellissima, in cui hanno preso dei soggetti con una situazione diabetica o con una iperglicemia, e hanno visto che la tiroide funzionava male. Nel momento in cui hanno iniziato a mangiare in modo da controllare l'iperglicemia, da controllare il diabete, cioè da ridurre gli effetti della glicazione, la tiroide è andata a funzionare correttamente. Che significa? Abbiamo nelle nostre mani, non è solo la sfortuna che ci colpisce, possiamo fare delle scelte, come dico sempre io, lo dico alla fine di questa cosa, perché tra poco andremo anche a mangiare insieme, l'importante di zuccheri non è contrastarli in maniera violenta, significa imparare a gustarli come anche la tradizione ci ha insegnato, nei momenti giusti, che sono dei momenti differati nel corso della settimana, del tempo, e non sono più sistematici ad ogni pasto, come purtroppo scopriamo nella quotidianità. Quindi riduciamo i picchi, salviamo la tiroide. Esatto. Ma dai, così, mi è venuta così. Adesso ci fermiamo, ma lei stia lì, perché devo farla ancora lavorare prima di darle questa bella cofanata di pasta che lei si sta sognando, perché tra poco rispondiamo alle domande. E adesso cosa mangio? Ve lo diciamo noi. Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non... era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16:30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. La bufala in tavola. E adesso cosa mangio? Il nostro spazio per dare voce ai dubbi e alle domande degli amici che ci scrivono a obiettivosalute@radio24.it, oppure ci mandano dei messaggi vocali al 335 830 4306. Dottor Speciani, è pronto? Prontissimo, sono qui. Perché qua si viene invitati, ma voi dovete lavorare, io vi invito affinché voi lavoriate. Allora, partiamo subito dalla prima richiesta. Mi sento un po' fiacca di testa, e adesso cosa mangio? Grazie, Nico. Dottor Speciani, anche questa è una forma di stanchezza. Certo, ed è una forma che troviamo e in cui abbiamo bisogno, davvero abbiamo parlato nella fase precedente di quanto sia importante il coenzima Q10 e è importante anche per la funzione encefalica. Poi devo dire quindi per far funzionare il cervello, per cui i cibi che abbiamo citato prima, parlavo del pesce grasso, parlavo dei cereali integrali, parlavo delle mandorle, delle nocciole, dei semi oleosi fondamentalmente, e un consiglio che io do alla popolazione media italiana è di controllare i cibi che sono usati ripetitivamente, quasi sempre un po' il glutine e il latte nella storia italiana, per cui semplicemente di provare a gestirsi dei cibi diversi per 2 o 3 giorni, quindi il riso, quindi scegliere altre fonti di proteine che non siano quelle di tipo lattiero caseario, per cui come abbiamo detto il pesce può andare benissimo, sempre cercando di bilanciare carboidrati, proteine, frutta e verdura nello stesso piatto, che sono utilissimi per attivare il metabolismo e far funzionare meglio il cervello. E oltre alla tavola possiamo suggerire alla nostra amica di fare delle belle passeggiate, fare un po' di moto, questo sicuramente aiuta. Ma aiuta tantissimo, non sicuramente, cioè sicuramente tantissimo, dai, rafforziamo questa cosa e soprattutto avvicinandoci al Natale, chi rallenta, chi smette di muoversi si porta dietro un affaticamento metabolico oltre a quello legato al peso che è sicuramente devastante. Andiamo all'altra richiesta, dottor Speciani, questo è un suo cavallo di battaglia, la colazione salata proprio non mi piace, ma oltre ai biscotti e alle fette biscottate cosa posso mangiare? Dottor Speciani, lei in tante occasioni ha suggerito preferire la colazione salata, suggerendo ad esempio anche delle cose gustose, salmone avocado su un toast, io l'ho provato squisito, ma c'è chi, e io sono tra questi, ama svegliarsi con il dolce. Allora che fare per bilanciare in modo adeguato? Allora facciamo subito una crepe che ha dentro delle uova, quindi uova, un po' di farina e fatta volantemente su una superficie calda, in un padellino, in un pentolino, e la crepe, l'uovo ha dalla sua che contiene proteine ed è abbastanza neutro come gusto, non è un gusto. Sì, è vero. Neutro. E a questo punto una crepe, se dobbiamo per forza utilizzare, abbiamo scelto di mangiare qualcosa di dolce, mettiamo un velo di marmellata fatta in casa, piuttosto che di composta di frutta. O una crema di nocciole. Una crema di nocciole. E a quel punto aggiungiamo anche sbriciolato, prima di avvoltolare la crepe, un pochettino di mandorle o di nocciole che hanno un contenuto proteico elevato. Vedi che abbiamo fatto una prima colazione dolce, tra virgolette, però ricca di proteine senza per forza doversi mangiare pesce, carne e uova strapazzate, giusto? Troviamo per tutti una soluzione, una risposta. E adesso cosa mangio? Ricordate 335-830-4306, noi mettiamo a vostra disposizione i nostri esperti. Beh, qua si fa subito festa, basta sentirlo, è in linea con noi Ciro Oliva di Concettina i Tre Santi, il volto nuovo del movimento della pizza. Ciro, ciao, buona domenica, grazie. Grazie mille, grazie a voi di avermi ospitato, grazie. Ti accoglie anche il dottor Attilio Speciani, che so che verrà stregato dalla tua storia e sicuramente passerà da Napoli a farsi una scorpacciata di pizza. Assolutamente sì. Eccolo lì, quindi Ciro. Salve dottore. Eccolo, meglio sempre tenerli buoni, va? Con una pizza, facciamo la pizza Speciani. Senti Ciro, la tua famiglia ha dedicato un'intera esistenza alla pizza, tanto che la magia di Concettina i Tre Santi arriva direttamente dalle tue radici, dalla vostra storia. Assolutamente sì, una tradizione di famiglia che parte dal 1951, siamo qui all'interno del nostro quartiere Rione Sanità e io sono la quarta generazione di Concettina. Oh, la quarta generazione, Ciro, io ti ho invitato perché voglio parlare, voglio raccontare di questo progetto bellissimo, della pizza solidale. Assolutamente, diciamo come noi l'abbiamo già fatto in passato, perché sono passati quasi 8-9 anni che noi facciamo questa pizza solidale, quindi partiva già da mia mamma, da mio padre che lavoravamo qui e loro già portavano queste pizze alle persone che erano in difficoltà, quindi nasce la pizza sospesa dal caffè sospeso per far capire alle persone il caffè sospeso che le persone lasciavano un caffè per l'altra persona che arrivava all'interno del bar. Noi abbiamo fatto con la pizza sospesa, quindi il cliente lascia 2,50 euro per una persona che è in difficoltà, e noi gli prepariamo questa pista a queste persone che sono in difficoltà. Ed ora è stata una cosa incredibile, perché l'emozione che si vede negli occhi delle persone guardare con un semplice prodotto, no? Di persone che veramente e anche le varie associazioni, da Mininkloster alla Sant'Egidio, alla Caritas, a tante altre che ci sono, che noi gli istituti intorno, l'emozione delle persone che dicono: ma com'è possibile mai? Ecco, e invece anche in questo periodo Ciro, di Natale... hai ragione, perché la pizza racconta, può raccontare anche il cuore grande degli italiani. A proposito di cuore, Ciro, qual è la pizza del tuo cuore? La pizza del mio cuore è il simbolo nostro della napoletanità, cioè della margherita, no? Perché la margherita? Uno, perché rappresenta Napoli; due, perché rappresenta l'Italia, con i nostri sapori mediterranei e con il nostro gusto mediterraneo, dal latte al pomodoro, a tutti i nostri valori. E quindi da lì che veramente dal rosso passione il cuore pulsante dei napoletani, no? Con la forza dei napoletani che riusciamo a mettere in tutto quello che facciamo, in termini l'arte di arrangiarsi, la chiamiamo a Napoli, ed è veramente una cosa molto importante questa qui da considerare, perché tutti quanti in momenti molto difficili come questi riusciamo a mettere il piatto a tavola, che è la cosa più importante, mettere il piatto a tavola. Grazie, grazie a Ciro, ancora auguri per essere stato con noi e per il tuo compleanno. Grazie mille. Complimenti per questo bel progetto. Grazie al dottor Speciani. Dottore, adesso si può riposare, ma dorma preoccupato, perché la chiamiamo presto. Va bene. Buona domenica. Buona domenica, Pietro alla Corte, di cui vi ho già detto, è qui e lì, arriva da Palermo, lo vediamo noi, siamo fortunati. Mamma mia. Allora, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo domani, sempre domani, lunedì, per iniziare la settimana insieme, dopo il GR di apertura del palinsesto. Buona domenica! Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i padri eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24. Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto. Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo! Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11.45 con Maria Piera Ceci e i padri eterni Matteo Bussola e Federico Taddia.